cari fratelli e sorelle, attraverso il ministero apostolico, la Chiesa, comunità radunata dal Figlio di Dio venuto nella carne, vivrà nel succedersi dei tempi edificando e nutrendo la comunione in Cristo e nello Spirito, alla quale tutti sono chiamati e nella quale possono fare esperienza della salvezza donata dal Padre. I dodici, come dice il Papa Clemente, terzo successore di San Pietro nel primo secolo, fine del primo secolo, dice il dodici, è procura di costituirsi dei successori affinché la missione loro affidata continuasse dopo la loro morte. Nel corso dei secoli la Chiesa, organicamente strutturata sotto la guida dei legittimi pastori, ha così continuato a vivere nel mondo come mistero di comunione, nel quale si rispecchia in qualche misura la stessa comunione trinitaria, il mistero di Dio stesso. C'è l'Apostolo Paolo accenna a questa suprema sorgente trinitaria della comunione quando augura nella seconda lettera ai Corinzi a questi suoi cristiani così: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Queste parole, eco del culto della Chiesa nascente, evidenziano come il dono gratuito dell'amore del Padre in Gesù Cristo si realizzi, si esprima nella comunione attuata dallo Spirito Santo. Questa interpretazione è basata sullo stretto parallelismo che il testo stabilisce fra i tre genitivi: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, la comunione dello Spirito Santo. E così questa interpretazione presenta la comunione come dono dello Spirito, frutto dell'amore donato da Dio Padre e della grazia offerta dal Signore Gesù. Peraltro, il contesto immediato è caratterizzato dall'insistenza sulla comunione fraterna e ci orienta quindi a vedere nella comunione dello Spirito Santo non solo partecipazione alla vita divina quasi singolarmente ognuno, ma anche logicamente la comunione tra i credenti che lo Spirito stesso suscita come suo artefice e principale agente. Si può quindi affermare che grazia, amore e comunione, le parole di San Paolo, sono aspetti diversi dell'unica azione divina per la nostra salvezza, azione che crea la Chiesa e fa della Chiesa, come dice San Cipriano nel terzo secolo, un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'idea della comunione come partecipazione alla vita divina, alla vita trinitaria, è poi illuminata con particolare intensità nel Vangelo di San Giovanni, dove la comunione d'amore che lega il Figlio al Padre e agli uomini è al tempo stesso il modello e la sorgente della comunione fraterna, la stessa idea che abbiamo trovato già in San Paolo. Comunione fraterna che deve unire i discepoli, discepoli fra loro. Dice il Signore nel Vangelo di San Paolo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E nella preghiera sacerdotale dice il Signore che essi siano uno come noi siamo uno. Quindi comunione con la comunione che è Dio trinitario è comunione degli uomini tra loro. Nel tempo del pellegrinaggio terreno il discepolo, mediante la comunione col Figlio, può già partecipare della vita divina di Gesù e del Padre. La prima lettera di Giovanni, dalla quale abbiamo sentito un brano, dice: la nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Questa vita di comunione con Dio e fra noi è la finalità propria dell'annuncio del Vangelo, la finalità della conversione al cristianesimo. Dice di nuovo San Giovanni nel brano della lettera che abbiamo sentito: quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Quindi questa duplice comunione con Dio e tra di noi è inseparabile. Dove si distrugge la comunione con Dio, che è comunione Padre, Figlio, Spirito Santo, si distrugge anche la radice, la sorgente della comunione tra di noi, e dove non va vissuta comunione tra di noi, anche la comunione col Dio trinitario non è viva e vera, come abbiamo sentito. Adesso facciamo un ulteriore passo. La comunione, frutto dello Spirito Santo, è nutrita dal pane eucaristico e si esprime nelle relazioni fraterne in una sorta di anticipazione del mondo futuro. Nell'Eucaristia ci nutre Gesù, ci unisce così con sé, col Padre e con lo Spirito Santo e tra di noi, e questa rete di unità che abbraccia il mondo è una anticipazione del mondo futuro in questo nostro tempo. Proprio così, essendo anticipazione del mondo futuro, la comunione è un dono anche con conseguenze molto reali, cioè ci fa uscire dalle nostre solitudini, dalla chiusura in se stesso, e ci rende partecipe dell'amore che ci unisce a Dio e così fra di noi. Mi sembra facile comprendere quanto grande sia questo dono se solo pensiamo alle frammentazioni, ai conflitti che affliggono le relazioni fra i singoli, i gruppi, i popoli interi, e se non c'è il dono dell'unità nello Spirito Santo, la frammentazione dell'umanità è inevitabile. La comunione quindi è veramente la buona novella, il rimedio donatoci dal Signore contro la solitudine che oggi minaccia tutti. È il dono prezioso che ci fa sentire accolti e amati in Dio, nell'unità del suo popolo radunato nel nome della Trinità. È la luce che fa risplendere la Chiesa come segno innalzato fra i popoli. Dice di nuovo San Giovanni: se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. La Chiesa si rivela così nonostante tutte le fragilità umane che appartengono alla figura storica della Chiesa, si rivela tuttavia come una meravigliosa creazione di amore fatta per rendere Cristo vicino a ogni uomo e a ogni donna che voglia veramente incontrarlo fino alla fine dei tempi. E nella Chiesa il Signore rimane sempre contemporaneo con noi. La Scrittura non è una cosa del passato, il Signore non parla nel passato, ma parla nel presente, parla oggi con noi ci dà luce, ci mostra la strada della vita e ci dà comunione, e così ci prepara, ci apre per la pace.